Sono sicuro che voi, che siete molto più intelligenti di me, avete capito perfettamente cosa siano le liste civetta e come funzioni lo scorporo. E io, vi confesso, non ci sono riuscito. Mi ci sono impegnato perché in fondo sono anni che seguo le cose politiche, un poco di meccanismi istituzionali me ne intendo, e un paio di volte mi è sembrato d'avercela quasi fatta, ad essere sul punto d'afferrare l'inghippo, di poter dare una risposta qualsiasi a quante in questi giorni, spinte da una riposta fiducia, mi chiedono con maggiore o minore imbarazzo: ma senti, esattamente cos'è questa storia delle liste civetta? Ma ogni successiva spiegazione sui giornali, ogni nuova intervista di Bertinotti, ogni ulteriore dichiarazione dell'ancora per poco onorevole Mussi mi confondevano irrimediabilmente le idee. Ho capito soltanto che il problema, oggi come oggi, non ha nulla a che fare con le liste civetta dei bei tempi andati del proporzionale, quelle che si presentavano allo scopo di confondere l'elettore facendogli votare qualcuno a scapito di qualcun altro, sì che ben meritavano l'appellativo, essendo notoriamente delegata la civetta a metaforizzare ogni tentativo di attirare con mezzi ingannevoli. Queste liste civetta qui, se non ho frainteso tutto, non vogliono attirare nessuno. E infatti funzionano benissimo anche se nessuno le vota. Le si fanno soltanto perché nella legge elettorale vigente c'è una specie di meccanismo perverso grazie al quale con gli stessi voti, una coalizione guadagna di più seggi presentando al proporzionale una lista in più, con l'unica finalità, qua cominciano i guai, con l'unica finalità di scaricarci lo scorporo, che sarebbe poi una specie di penale legata al successo del maggioritario che, se applicata, danneggerebbe in maggiore o minore misura le liste vere. Se le cose stanno così, io ve lo ripeto, non ne sono sicuro, se le cose stanno così si impongono due conclusioni. Due. Uno, che questa legge elettorale fa davvero schifo, nel senso che è fatta tanto male da ingenerare degli effetti perversi che nessuno, si presume per carità di patria, aveva previsto al momento della sua stesura, un po' per intenderci come un baco in un programma informatico. E il fatto che in 10 anni non si sia riusciti a sbarazzarcene è una delle più clamorose dimostrazioni di inettitudine del nostro ceto politico. Due, che oltre a essere inetto, esso ceto ha una certa vocazione truffaldina, visto che in entrambi gli schieramenti si sostiene a gran voce che la presenza di questo baco elettorale è deplorevole e scandalosa, ma visto che c'è, allora tanto vale approfittarne, perché i seggi sono seggi e se qualcuno ci smena, come sullo dato Bertinotti, è un vero peccato, ma peggio per lui e peggio per i suoi elettori, che si ostinano a non inquadrarsi in una bella coalizione come tutte le persone per bene. Sono due conclusioni sgradevoli, dal sapore vagamente qualunquistico, lo so, sarebbe meglio evitarle alla vigilia di uno scontro cui molti annettono grande importanza ai fini della salvezza della democrazia nel paese, ma non so proprio cosa farci. Se si vuole salvare la democrazia, ahimè, bisogna seguirne le regole. Una delle quali prescrive che i voti valgano tutti allo stesso modo, che è appunto quello che si vuole escludere presentando le liste civetta. E qualcuno ha detto che non è il caso di metterla giù tanto dura, deve essere il non più onorevole Mussi, credo, che lo svantaggio che si accolla ai non coalizzati comunque è minimo e sarà. A chi ragiona così evidentemente interessa poco delle questioni di principio e peggio per lui, ma chi alle questioni di principio ci tiene e tra queste comprende un minimo di rispetto per l'elettorato altrui, adesso cosa deve fare?